Roma Trastevere, 12 dicembre 1973. Care Eleuterio, la vecchia casa che mi vide fanciulla e felice oggi mi vede donna e pensosa. Mia sorellina, gli occhi velati di lacrime, si associa alla mia tristezza. La pioggia ricama tendine d'acqua sui vetri delle finestre. E io penso che la pioggia è una spremuta di nuvole che il cielo offre alla città. Penso anche che sei un cretino, Eleuterio. L'austerity, come dicono gli italiani, è una faccenda seria e inderogabile e chi la respinge è un insensibile ai problemi nazionali, sempre tua. Roma Farioli, 13 dicembre 1973. Incontrollabile, sempre mia. Hai ragione. L'austerity, come dicono gli italiani, è un fatto serio. E vorrei che tua sorella desse il buon esempio e cominciasse a non sprecare aria respirando. Basterebbe mezz'ora di economia da parte sua. Io avrei la possibilità di indossare l'austero abito nero con il quale mi presenta in chiesa, al tuo fianco, nella illusione che tu fossi una normale fanciulla con cervello incorporato. Eleuterio. Ho scritto, il figlio della portiera verrà oggi a trovare tua sorella. Deve fare un tema sulla mongolfiera. Ne vorrebbe vedere una da vicino. Roma Trastevere, 14 dicembre 1973. Care Eleuterio, gatto. Ho scritto la parola gatto con molto distacco. I gatti possono avere affezioni epidermiche, i mici no. Mia sorellina, dopo aver cercato sul vocabolario la parola mongolfiera, si è rifiutata di mangiare le testine di abbacchio al forno perché non gradisce la tua presenza a tavola. Passano i soldati con la banda in testa e io penso che la banda è la scusa della musica che vuole fare un po' di footing. Sono perfettamente decisa a mantenere il clima di austerity da me democraticamente instaurato senza il tuo consenso, sempre tua. Roma Parioli, 15 dicembre 1973. Inamovibile, sempre mia. Senza di te la vita mi è diventata impossibile. Amici e conoscenti continuano a congratularsi con me per essermi liberato di una moglie come te. Fra telegrammi e telefonate non ne posso più. Ieri in trattoria hanno servito a tutti la coda di rospa ai ferri. Tua sorella mi perseguita anche durante i pasti. Torna, anche perché da qualche giorno non sto bene. Ogni volta che vado a letto e che mi alzo, sento un freddo terribile ai piedi. Eleuterio, ho scritto, non sono ammalato. Dice la portinaia che il freddo ai piedi, quando mi corico e mi alzo, dipende dallo scendiletto, che è sul letto anziché per terra, e il marmo del pavimento è generalmente freddo. Roma Parioli, 16 dicembre 1973. Care Eleuterio, micione, sono nella casa che ha sulla porta la targhetta con il tuo cognome, che è anche il mio, mentre prima ero nella casa che ha sulla porta la targhetta con il cognome di mia sorella, che era anche il mio, prima che prendesse il tuo. L'orologio a pendolo segna le 7 e io penso che il pendolo è il tergicristallo con il quale il tempo spazza via la pioggia di secondi che cadono nel passato in modo da vedere meglio le ore che ha davanti a sé. Penso anche al futile motivo della nostra ultima lite. Ricordo tutto nei particolari. Sei entrato in soggiorno come una furia. Dove sei? Accidenti! Ma perché questa maledetta luce non si accende? Calma, Eleuterio, non si accende perché non c'è la lampadina, però c'è la candela, ma se tu non accendi nemmeno la candela, prendi di petto alle sedie. Io non voglio accendere la candela, ma perché devo accendere la candela quando esiste la luce elettrica? Perché siamo in regime di economia e tutto quello che è elettrico va usato con parsimonia, lo ha detto anche la mia sorellina. L'unica cosa elettrica che vorrei usare una volta sola è una bella sedia con la tua sorellina sopra. Voglio accendere la luce! Chi te lo impedisce? In bagno la luce c'è. Ma nel mio studio no. Eleuterio, perché non leggi i giornali? Una lampada sì e una no. Austerity, quindi, nel tuo studio no, nel bagno sì, sul tuo comodino no, sul mio sì, in cucina sì, in salotto no. Ah sì, E con quale criterio hai deciso dove levare le lampadine? Abbiamo fatto una riunione, io e la mia sorellina, per decidere saggiamente il tutto. Abbiamo tolto la luce dove è inutile lo spreco. In salotto, nello studio e sul tuo comodino, via, perché sono i posti dove tu di solito leggi e non si può sprecare energia per leggere cose inutili. Cose inutili? Non passa mica il tempo a leggere la storia della tua vita. Io voglio immediatamente la luce come prima. Eleuterio, mi meraviglio. Anche tu devi fare qualche cosa per il bene della nazione. D'accordo, dammi la doppietta. Faccio un salto in Trastevere, spara a tua sorella, eliminando così la causa principale dell'inquinamento atmosferico. Per il bene della nazione. Lascia stare mia sorella, che ti ha fatto di male? È nata! Voglio la luce in studio. Devo preparare un saggio sul teatro di Pirandello. Mi devo documentare. Eleuterio, sono le 23:15. Non importa. Farà nottata, ma devo lavorare. Eleuterio, secondo le regole, il teatro di Pirandello, come quello di Edoardo e quello di Molière, deve essere chiuso alle 23. E io chiuso a chiave tutti i libri sull'argomento. Riaprirò la radio domani alle 20. Ah sì? Se tu non rimetti tutto come prima, io ti spacco la testa, chiamo l'ambulanza e ti porto contro ogni divieto a fare una bella gita domenicale per la città. È chiaro? No, Eleuterio, posa quel portaombrelli. Metti le lampadine dove erano e preparami un caffè che devo lavorare. Eleuterio, i bar devono chiudere alle 24, quindi niente caffè. La luce! O vedrai aiuto! Cosa succede, il caffè! Torno da mia sorella, non posso vivere con uno che senza ragione mi lancia una povera donna. Ricordo tutto perfino nei particolari, ma quando rientrerai farò come se avessi dimenticato. Ciao. Ciao Eleuterio, ho finito adesso di parlare al telefono con la mia sorellina. Dice che bisognerebbe incentivare la ristrutturazione della casa con particolare riguardo al tuo studio.